accessibile, ul-haniyat, che i mistici considerano derivato da Allah, vuol dire solitudine, ma selvatica solitudine, commentato come wahshaniya o qualcosa del genere. Al contrario, il Brahman indiano è la medesima dimensione divina a cui il devoto tende e che di già possiede inconosciuta. Il suo compito è quello di risvegliarsi e sperimentarla. La Bhakti, generalmente intesa come amorosa devozione verso Dio, è in realtà per gli indiani concepita come comunione esistenziale verso un Dio che ognuno di noi porta in se stesso senza saperlo e dal quale il devoto mira ad identificarsi completamente, hic et nunc. E adesso la Sheta attribuisce come supporto meditativo la personalità di Vishnu, di Krishna, di Shiva, della Dea Kali, e perché no, di Allah e Gesù, perché io ho incontrato dei sadhu indiani che erano devoti di Allah e di Gesù. Lo stesso scopo della Sheta Hindu e anche del comune credente è la interiorizzazione del simbolo fino alla totale sua identificazione con esso per via estatica. A ciò soccorre un insieme di discipline note col nome di yoga, sulle quali è inutile che io mi dilunghi anche perché uscirei dal tema. Il primo principio epistemologico su cui si basa è quello della molteplicità degli stati di coscienza, veglia, sogno, sonno e catalessi, del resto studiati in Islam da Al-Faradi nei suoi Fusus al-Hikam e da Al-Ghazali nel suo Munqir. Per lo yogin o per il santo in hindù si tratta di diversi livelli di coscienza, anzi di autocoscienza, quindi di potere, ai quali il meditante deve accedere in pienezza di spirito, cioè perfettamente sveglio, realizzando inversamente i diversi gradi della manifestazione del verbo creatore, la Vak. Il secondo principio epistemologico che caratterizza l'estrema soggettività della meditazione filosofica indiana risiede nel fatto che tutti i suoi accennati gradi della manifestazione dei mondi e del loro riassorbimento nell'immanifesto altro non sono che pensiero puro, citta, di cui quello umano è luce riflessa nell'illusorio gioco esistenziale, la Maya. Ora, il fine di questa Weltanschauung, qui brevemente riassunta, è quello di superare la condizione umana trasponendosi in una entità divina, una vera e propria apoteosis, né più e né meno, esattamente il contrario della ubudia postulata dall'antropologia dell'Islam ortodosso, a riguardo della quale sono illuminanti gli hadith qudsi, quelli in cui Dio parla in prima persona anziché il profeta, allora da che afferma in uno di essi, ricordo il Corano 10:2, che Muhammad è uomo come un altro, al massimo, dice, un esempio buono per chiunque speri in Dio nell'ultimo giorno e molto menzioni in Dio, Corano 32:21. Da questa imitatio Muhammadis, come la definiva buon'anima di Bausani, che Dio abbia in gloria, discende il fatto che la teologia islamica è praticamente assorbita dalla legge, in cui mancano le connotazioni sacerdotali e ritualistiche essenziali nella nostra concezione di religione, e tanto più quello sfondo magico mistico che apparenta l'induismo ai culti del nostro Mediterraneo arcaico, gli hiera misteria della remota grecità. Per cui vi è stato perfino uno scrittore pakistani, Ghulam Ahmad Parvez, che qualche anno fa poteva scrivere un saggio intitolato Islam, a Challenge to Religion, una sfida alla religione, ben inteso quello che si intende per religione in Occidente. L'Islam fondamentalmente è un insieme di comportamenti con i quali la comunità intende realizzare il regno di Dio sulla terra, ma non certo identificarsi al divino come presume qualsiasi confessione hindù. Possiamo marginalmente osservare che è proprio questa spoliazione dell'elemento magico panteista della religione islamica quello che ha permesso lo straordinario sviluppo della scienza in Islam, proprio perché secondo le categorie proprio secondo le categorie critiche su cui sarà fondata la moderna scienza occidentale da Galileo in poi. In questo senso l'Islam ci ha preceduto, perché il panteismo lo ha messo da parte e lo ha lasciato ai mistici, e proprio seguendo la via obiettiva della realtà del mondo è arrivato alla scienza. La magistrale osservazione e il semplicissimo calcolo con cui un Aldiruni corresse Tolomeo ed Aristarco da Samo, fondandosi sulla composizione di dati obiettivi per misurare il perimetro dell'orbe terracqueo, è un esempio eccellente di quanto andiamo discorrendo. Ora, dopo aver rappresentato la separazione, io devo fare, dopo questa parte di destruzione, devo andare anche alla costruzione. L'uomo islamico ortodosso non è per vocazione un mistico, uno hanif solitario, bensì essenzialmente un uomo di comunità, un appartenente fino a un certo limite allo ahla taqlid, cioè la gente della imitazione. I mistici diranno: noi siamo ahla ta'yid, cioè la gente della confermazione. Cos'è il taqlid? Cioè il modellare il proprio comportamento sulle tre fonti della legge rivelata: il Corano, la Sunna, cioè il costume, il consenso della comunità, cioè lo ijma, a cui si aggiunge il ragionamento analogico, il qiyas, non perché esso sia il ragionamento intrinsecamente l'autore del vero, ma perché il Dio espressamente ordina all'uomo di riflettere sui segni dell'universo e di dedurne il Dio, ma neppure perché la ragione naturale, come accade nella teologia cattolica post-mistica, abbia in sé la nozione di Dio. Ne discende il paradosso in Islam che la speculazione gnostica, la esperienza mistica, quindi l'esperienza esoterica, non sono quindi condannate come eresie, come avviene in Occidente, purché non presumano di sostituirsi al magistero della comunità, che in Islam, pure senza rivestire il carattere sacro liturgico, rappresenta ciò che da noi è la Chiesa. In altri termini, un al-Hallaj, un Ain al-Qudat al-Hamadani, un Sohrawardi, tanto per fare esempi eminenti di mistici martiri, non furono condotti all'estremo supplizio per la enormità di ciò che dissero. Al-Hallaj disse: io sono Dio, an-al-Haq, per quello che scrissero e propalarono, bensì perché, come poi faranno implicitamente al-Farabi e Avicenna, rifiutavano il primato del magistero, di ciò che noi chiameremmo la Chiesa, rispetto ai dettami di quell'intelletto agente, lo aql al-fa'al, emanazione del verbo creatore, il kun fayakun, fattosi, secondo la scia estrema, creatura adamica nella persona. Che cosa ho scritto? Roba da pazzi. Concreta di Ali o di Salman Epak, oppure l'imam nascosto all'imam al-Ghaib, secondo la teologia Ithna Asharia. Al-Ghazali, nel suo Iqtisad al-E'tiqad, ammette la ricerca individuale, l'Ijtihad, fino al livello mistico compreso. Io parlo di due al-Ghazali, soprattutto di Ahmad, il fratello. Non solo entro i limiti ineludibili della rivelazione, altrimenti si è fuori dell'Islam, quanto rispettando il primato degli atti legali che regolano la vita di ogni muslim sulla terra. Per il resto, Allahu a'lam, il Dio è il più sapiente e la ricerca è libera. Facciamo notare come nelle tre religioni di ceppo abrahamico convivano le due anime, quelle della legge rivelata da seguire a puntino, pena l'inferno, e quella dell'amor di Dio, che per chi lo sperimenta è di là dalla ragione, dalla follia ancora di più, dalle leggi di questo mondo. Le terrene avventure e i rischi confessionali corsi, ad esempio, da tanti mistici spagnoli, sia cristiani che musulmani, sono la riprova di quanto vado dicendo. Si ricordi, ad esempio, Ramon Llull, che poi era fra l'altro un enorme alchimista e uno straordinario stregone, San Juan de la Cruz, e la stessa Santa Teresa de Avila, che Dio abbia in gloria, monja loca y andariega, monaca pazza e girandolona, come ebbe a definirla addirittura un vescovo che per pietà cristiana non cito. trovarono il loro riscontro nelle avventure spirituali e i pericoli terreni di un altri loro compaesani, Ibn Masarra, Ibn Hazm e infine il massimo dei mistici, Ibn Arabi. Io mi vanto di essere dello stesso paese, del Murziano, per seguitare con Alba Tadiussi, l'uomo di Badajoz, e la lunga comitiva di mistici andalusi, tutti quanti mistici pazzi e a un pelo di uscire dall'ortodossia. Agli occhi nostri è certamente molto sorprendente che questa specie di ijtihad, rasentante l'eresia, o peggio il kufr, l'infedeltà, si sia manifestata soprattutto in campo sciita e in un certo modo ne formi la giustificazione pratica, addirittura teologica. Tanto è vero che fino al tempo di Al-Ghazali essere un sufi più o meno dava il sospetto di essere un mezzo sciita, e lo stesso sospetto di eresia circondava la figura di grandissimi falassifa come lo stesso Avicenna. Il paradosso della penetrazione in Islam del pensiero ellenizzante mediato dai gnostici cosiddetti sabei e di un insieme di concezioni di origine iranica relativa alle gerarchie angeliche che poi troveranno collocazione nelle scienze astronomiche e matematiche è dato dal fatto che esso sia avvenuto soprattutto nell'ambito della Shia, come lo dimostra l'enciclopedia degli Ikhwan as-Safa, ove l'autorità dell'imam, vivente o nascosto che sia, lì era vivente per Ja'far as-Sadiq e Muhammad al-Baqir, è molto più cogente e vasta di quella della legge. L'imam, nell'accezione sciita, non è affatto considerato un uomo qualunque, sia pure scelto da Dio, come il Corano dice del medesimo profeta Muhammad alayhi wa sallam, ma è ritenuto addirittura una manifestazione divina, a'udhu billahi minash shaitani, fin entro il limite fisico. Il pensiero sciita non è più caratterizzato dall'attesa di una rivelazione, dato che Muhammad chiude il ciclo della profezia, essendo al-Khatim al-Anbiya, dopo Adamo, Noè, Abramo, Enoch, Elia, Mosè, Gesù e tanti altri. L'attesa sciita è orientata verso la manifestazione totale, diremmo la parusia, di tutti i significati arcani o spirituali della rivelazione. Una apocalipsis, dobbiamo dirlo in termine greco. A ciclo concluso della profezia segue quello della walaya o wilaya, cioè degli amici di Dio, che sono i dodici o il ritmo dei sette imam visibili ed invisibili degli ismaeliti, custodi di una eredità spirituale, lo Ilm Irsi, il quale costituisce il significato arcano, il batin, della serie della legge rivelata o dedotta razionalmente dalla rivelazione. La esegesi occulta condotta dall'imam secondo la Shia non necessita di un'intelligenza discorsiva, quanto presume il risveglio dell'intelligenza del cuore, la ma'rifat qalbiya, che fa risorgere il significato spirituale, il ma'ana ruhani, dalla tomba del testo. Questo è il ta'wil, che ci dice Nasiruddin Tusi nelle sue tasawwurat, cioè l'atto di ricondurre il dato intellegibile o addirittura quello sensibile al suo archetipo, lo Awel, cioè al suo principio celeste. Questo principio, la cui rivelazione presume un excessus mentis ad rem, spiega anche l'interesse degli Ikhwan as-Safa verso la scienza, considerata non tanto per il suo fine irrimediabilmente pratico, ma come supporto a un tipo di contemplazione meditativa che in Occidente troverà i suoi ultimi adepti nei mistici renani, in Jacob Böhme, e alle soglie dei nostri tempi addirittura nella dottrina celeste di Emanuel von Swedenborg. Questo ta'wil, per cui ogni cosa parvente ai nostri sensi e al nostro intelletto si trasforma in un segno, in una aia del mondo spirituale, emerge come inizio dell'esperienza del tawhid, che potremmo tradurre come l'unità del reale in Dio, dato che in arabo reale haq vuol anche dire Dio. Ciò nella dottrina sciita presume l'incontro con l'imam del proprio tempo, lo imam Azaman, che sotto le fattezze dell'Adamo primordiale, lo Adam Qadim, che poi è una ripetizione in chiave islamica dell'Adam Qadmon della Kabbalah, l'imam Azamin e imam, e del proprio tempo, l'imam Zaman, sotto le fattezze dell'Adamo primordiale o uomo perfetto, l'insan al-kamil, che ognuno porta in se stesso come ricordo dello stato edenico, preesistenziale. Questo incontro avviene, per adoperare l'immaginosa espressione persiana, in quel Nakuja Abad, il luogo senza dove, che è il centro del proprio cuore, lo oltre spazio. Qui salto un pezzetto perché sennò non farei una esibizione di chiacchiere e che poi ruba il tempo, la pazienza a loro e il tempo a chi mi deve seguire, che è molto più importante di me. Vorrei anche dire che ci sono stati influssi indiani nei movimenti eterodossi islamici, che poi attraverso l'ismailismo hanno permeato numerose turuq sufiche, come varie concezioni metafisiche e pratiche, quale la pratica del dhikr, della samah. E il mio collega Isuzu Toshihiro, giapponese, ha portato delle prove cogenti proprio sul fatto che la pratica dello dhikr è da collegarsi con la pratica tantrica e yogica del mantra, cioè il mantra è considerato come la proiezione sul piano auditivo di una realtà esistenziale che viene direttamente sperimentata di là dal pensiero logico discorsivo, detto in tre parole. Ma dall'India ci proviene anche il concetto dello zero nelle matematiche, i segni numerali, il concetto dello vuoto, lo shunya, cioè quello Adam che Jalaluddin Rumi chiamerà la fucina della realtà e di cui discorre al-Biruni in una interessante risala diretta a un Adam, risala scritta anche in persiano, quindi facilmente leggibile, diretta a una dama, cosa molto interessante per la posizione della donna nell'Islam in quel tempo, una dama, come dire, une femme savante, che abitava a Samarkand e si chiamava Raihana. C'è una corrispondenza interessantissima su dei punti metafisici e fisici, proprio anche di calcolo matematico normale, come anche di metafisica. Ora, il robusto monoteismo semitico che è stato imposto dall'Islam con la spada e con la lancia in quella parte di India che poi è diventata Pakistan ha avuto anche un buon effetto, diciamo così, sull'India, e mi perdonino le anime degli indiani presenti se ci sono, e in questo senso che ha insegnato a loro rendere universale il proprio messaggio di là dalle caste a varie sette come i Kabir Panti, i Sikh, che originariamente era una setta molto pacifica di genere monoteista, ai Ramanandi e lo stesso Brahmo Samaj, insomma tutto l'induismo moderno. Vi sono dei santi hindù come Kabir egualmente venerati da hindù e da musulmani, addirittura al momento di morte ebbero due cadaveri, uno per uno gli uni per gli altri, i due cadaveri poi si trasformarono in un cespo di rose. E del resto il mio collega Stricca mi ha segnalato che a Baghdad vi è un sacello dedicato alla memoria di Guru Nanak, il fondatore dei Sikh, cioè quelli che più tardi diventeranno i Mangia musulmani per eccellenza. Inoltre, presso nelle liste dei sadhu che io stesso ho controllato, vi è la menzione non di pochi ma numerosi auliyyah musulmani che con carità universale accudiscono ancora oggi, a secoli di distanza dalla loro morte, alle necessità esistenziali anche dei loro devoti hindù, così come le figure di Machindanate, Gorakhnath, i famosissimi maestri di yoga, sono considerati antenati spirituali da sette sufi, peraltro sunnite addirittura, non sciite. Mi riferisco in particolare ai due orientamenti della Wujudia e della Shuhudia ortodossa indiana. Nella penetrazione degli influssi indiani entro l'Islam mistico-gnostico, del Hulu, intendiamoci bene, qui adesso passo alla Scia più estrema, difficilmente scederabili da quelli tardo-ellenistici, Masdei, eccetera, credo che si possano distinguere due o tre tempi fondamentali. La prima fase è quella della formazione dello Ummul Kitab, che quando ero giovane mi presi la cura, la briga di tradurre. Non vi consiglio di leggere perché è un librone di 540 pagine con il commento dovuto a una specie di folle ambulante chiamato Filippani, che in quel momento lo stava traducendo. Dunque, e di altri libri del genere. In questo Ummul Kitab è un'opera di estremo sincretismo, più o meno dell'ottavo secolo, perché cita come terminus ad quem Abul Khattab, Ja'far al-Sadiq e l'imam al-Bakr. Noi troviamo degli elementi soteriologici buddisti, vajrayana, tantrico shivaiti, in funzione paratica, diciamo yodhigika, che sono fortissimi, e questi io li posso riconoscere perché quella è roba del mio mestiere, nel senso che potrei addirittura prendere dei pezzi di tantra che ho tradotto dal tibetano e metterli lì e confrontarli, perché sono pari pari presi. Ma la cosa più interessante, per esempio, è che l'Ummul Kitab ammette anche lo Hulul e il Tanassoh, cioè la ripetuta reincarnazione non verso i secoli futuri, ma anche verso i secoli passati. Quindi l'uomo si può reincarnare al tempo di Adamo o di Mosè, eccetera. Ciò che implica un principio epistemologico molto importante, e cioè la concezione del tempo non come waqt o come zaman, bensì come durata, come zamana. Cioè il tempo considerato, adesso dico una cosa molto brutale, come un pezzo di carne non ancora affettata, per rispetto ai musulmani presenti non ho detto il salame, no? Cioè, non affettata, ma come una entità che può essere vissuta con un excessus mentis, proprio con una visione completa. Ora, questa opera, per i caratteri estremamente arcaici, l'ho detto, appartiene a quell'epoca. Un carattere più precipuamente indiano dell'Ummul Kitab è quello della interiorizzazione del simbolo, dal punto di vista soteriologico, ma anche dal punto di vista pratico. La cosiddetta Kiyama rappresenta, non è altro che una traduzione, è diventata una traduzione in termini islamici di quello che viene chiamato lo Ashraya Paravrti nel Madhyamaka indiano, anzi buddista, cioè il rovesciamento dell'appoggio, che viene qui simboleggiato con l'Oriente che avviene in Occidente, l'Occidente che avviene in Oriente, cioè la cessazione di quello che viene chiamato in Islam al-Ghurbat al-Gharbiya, l'esilio occidentale, Occidente essendo il mondo della materia presa come realtà, che poi riecheggia un antico motivo manicheo del ritrovamento della perla perduta nel Mar Rosso. Ora, c'è molto un'altra cosa, la rappresentazione che poi troveremo nello Sheikh Ahmad Ahsai, che è il capostipite della setta Shaykhi attuale di Persia, cioè la visione estatica della Sacra Famiglia con Muhammad, Ali, al-Hassan e al-Hussein, e in mezzo chi vi è. Questa è la cosa molto importante. In questo excessus che ci permette di contemplare le cose come realmente sono, in mezzo vi è la meravigliosa figura di Fatima, cioè della donna. Fatima chiamata con l'aggettivo maschile Fatir, perché la contemplazione di Fatima è quella che ci fa realizzare l'androgine spirituale, cioè la interiorizzazione di quella essenza femminile per cui noi ci inchiniamo dinanzi alla donna, pur presumendo nel campo materiale la superiorità dell'uomo. Ora lì viene invece rappresentata proprio come una realtà accessibile e come, diciamo così, la porta di entrata verso la conoscenza dei misteri. Oddio, qui avrei da parlare ancora per un pezzo, mi pare che ce ne sia abbastanza, no? Sì. Naturalmente, per dirlo in termini molto più spicci, ci sarebbero parecchie pagine, perché questa è materia e farina del mio sacco e appartiene a quello che io personalmente ho saccheggiato in una gara compiuta in India, nell'ambito della setta Satpanti, dove io sono stato anche chiamato, cosa stranissima, ad insegnare teologia ismaelita. Dunque, la cosa più stupefacente è, diciamo così, in questa setta Satpanti, che è una setta formalmente islamica, obbediente allo Aga Khan. Ci sono parecchie sette ismaelite. Satpanti vuol dire in sanscrito, fra l'altro, oltre che in Gujarati, vuol dire la setta della verità. In questa setta della verità viene praticamente assorbito non soltanto assorbito, non soltanto la pratica soteriologica dello yoga propria alle sette più estreme tantriche della mano sinistra, in cui è necessaria la presenza di una donna simbolica o fisicamente presente. Questo mi è stato assicurato da donne sposate della setta Satpanti. Quindi nei loro riti ci sono dei riti di iniziazione, di passaggio, che sono stati presi di peso dall'induismo, sempre con il rispetto dei cinque arcani dell'Islam. Questo naturalmente, ma anche la denominazione di tutti quelli che sono gli elementi della realtà fisica secondo delle denominazioni che appartengono al Samkhya e al Vedanta. Come questo non fosse sufficiente, il colmo dello scandalo è che Ali viene concepito come il Mahdi e viene concepito come, detto in termini proprio indù, Das Avatar, in sanscrito Dasha Avatara, cioè la decima reincarnazione dello spirito universale che è Vishnu. E quindi viene situato in una posizione addirittura superiore a Muhammad e viene anche identificato al Cristo, ma a un Cristo venturo che arriverà sul cavallo bianco. Perché cavallo bianco? Perché in sanscrito viene chiamato Naklanki o viene chiamato Kalki Avatara, perché Kalka vuol dire ciò che non è nero, ciò che è splendente di bianchezza. Adesso nelle locuzioni volgari italiane si dice: ma che hai fatto l'anticristo a cavallo? Proprio per indicare che l'anticristo sarà nato a contraffazione del Cristo venturo, che nella coscienza popolare, praticamente dalla Spagna fino alla Birmania, è sempre questo uomo splendente e luminoso con i suoi due arcangeli su un cavallo bianco. In termini, diciamo così, più strettamente accademici e scientifici, li potrete dedurre da comunicazione personale del Filippani, quando riuscirete ad acchiapparlo, magari per dargli un sacco di legnate, oppure quando verrà forse pubblicato questo immenso numero di sciocchezze che ho avuto la gioia e l'onore di sottoporre alla vostra benevola attenzione. E dico sciocchezze perché mi ricordo soprattutto il detto di San Paolo, che ciò che per l'uomo è saggezza, per solo l'uomo, verso il Dio, non è altro che mera stoltezza. Signori, grazie. Grazie. Ringraziamo il professore Filippani, anche se ci ha portato in un mondo, penso che molti assai nuovo, il mondo delle sue relazioni tra Islam e Indo e la civiltà indiana. E al tempo stesso, mentre lo ringraziamo, vi invito a fare un quarto d'ora di riposo. Ecco.